Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Andiamo in onda quest'anno proprio in un weekend che più natalizio di così non potrebbe essere, quindi tanti auguri a tutti e tutte voi su questo sottofondo musicale che rimanda a un Natale su spiagge caraibiche. Lo abbiamo scelto per portarvi fuori dalla routine. In questa puntata vi proponiamo storie di scienza e gastronomia. Infatti inizierò raccontandovi di una signora che cuoce le uova con le mani. Però adesso ascoltiamo i titoli perché c'è anche altro. È Natale, vi spieghiamo la nuova meringa italiana, che è quella torronata, e a questo punto vi spieghiamo anche la fisica del torrone. C'è poi una signora che cuoce le uova con le mani e un libro ci spiega che è una semplice illusione, insieme ad altri misteri che misteri non sono. Questo invece è vero. Alberto Angela ha scritto un libro, seguendo il sesterzio, la moneta romana, sulle strade del grande impero. E infine gli alieni. Sono già arrivati e sono fra noi? Oppure dobbiamo prepararci a non commettere errori quando arriveranno? Sono domande che possiedono una loro precisa radice scientifica. Vi leggo subito un estratto da un libro che fa così. Qualche anno fa si presentò da noi una signora che sosteneva di avere un misterioso potere, frutto forse di un fluido che promanava dalle sue mani. Era in grado di mummificare le uova. In pratica, la signora rompeva un uovo in un piattino, imponeva le mani per qualche minuto senza toccarlo e poi lo lasciava in un angolo tranquillo. Dopo alcuni giorni, l'uovo, invece di farsi notare prepotentemente per il caratteristico odore sulfureo, appariva disseccato, come mummificato. Non puzzava, aveva la consistenza della plastica e poteva essere conservato indefinitamente anche se nessuno si azzardava ad assaggiarlo. Bene, questo è l'estratto da un libro il cui titolo è Sulla scena del mistero, guida scientifica all'indagine dei fenomeni inspiegabili. Gli autori sono Stefano Bagnasco, Andrea Ferrero e Beatrice Mautino. Qui con me stasera ci sono Stefano Bagnasco e Beatrice Mautino. Vi saluto tutte e due, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Andrea Ferrero mi pare che è in Olanda, quindi irraggiungibile per il momento. Sì, sì, è irraggiungibile, ma è con noi in spirito. E con voi in spirito. Stefano Bagnasco, fisico, lavora all'INFN di Torino e al CERN di Ginevra. Stefano Bagnasco, fisico, lavora all'INFN di Torino e al CERN di Ginevra. E Beatrice Mautino è biotecnologa, lavora nel campo della progettazione di laboratori didattici. Tutti e due fate parte del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle affermazioni sul paranormale. Allora Beatrice, questa storia delle uova, le uova mummificabili. Sì, allora quello che ha letto è un estratto dal nostro libro nel quale raccontiamo questo episodio particolare di questa signora che si è presentata a noi dicendo di avere questo bizzarro potere. In realtà la pratica, diciamo così, di mummificare uovo o pezzetti di carne è spesso messa in atto dai pranoterapeuti per cercare di dimostrare i loro poteri, infatti. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere alla prova questo suo potere, questa sua capacità singolare. Cosa è successo? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso 10 uova, le abbiamo rotte in altrettanti piattini e abbiamo chiesto alla signora di imporre le sue mani su tutti questi piattini. I piattini sono poi stati chiusi in una stanza sigillata per una settimana e alla fine della settimana li abbiamo analizzati. Sì. Però il metodo di indagine scientifico prevede che si utilizzi anche una sorta di campione di controllo, cioè delle uova che non vengono trattate dalla signora, ma che vengono poste nelle stesse identiche condizioni delle uova trattate. Questo serve per avere un qualcosa con cui confrontare, diciamo così, il campione trattato da quello non trattato. Quindi abbiamo preso 10 uova, le abbiamo messe in 10 piattini, abbiamo tenuto la signora abbastanza lontana dalle uova, abbiamo chiuso anche queste in un'altra stanzetta e le abbiamo lasciate lì in una settimana. Quello che è successo dopo una settimana è che le 10 uova trattate dalla signora avevano effettivamente un aspetto mummificato, erano solide, l'uovo, il tuorlo e l'albume. Sì. Stranamente anche le 10 uova non trattate dalla signora avevano lo stesso aspetto. Ma allora la signora sarà rimasta malissimo. Quello che succede a questo tipo di alimenti lasciati in queste condizioni, ad esempio in un clima secco e asciutto, è che l'aria semplicemente evapora e le proteine si solidificano, coagulano, e quindi invece di marcire diventano secche e solide. Quindi questo è uno dei tanti esempi di leggende di varia natura che ruotano intorno a cose misteriose, ma che però analizzate un po' bene dal punto di vista scientifico si vede che sono diversamente. Ecco, Stefano Bagnasco, c'è un come si potrebbe dire, un grande tema che è quello del pendolino. Sì, anche questo lo esaminiamo subito dopo l'episodio delle uova, perché in quel capitolo lì stiamo cercando di ragionare su quali siano gli strumenti che servono scientificamente, che fanno parte del metodo scientifico come strumenti pratici, cioè quelli che usa lo scienziato tutti i giorni per progettare i suoi esperimenti. Allora, l'esempio delle uova è servito appunto per illustrare questa cosa del campione di controllo. In un altro caso c'era un signore che sosteneva di poter indovinare con il pendolino se le persone erano vive o morte. È un punto classico. Era che non gli serviva la salma, gli bastava una fotografia della persona. Lui metteva il pendolino sopra, se il pendolino si muoveva rapidamente la persona era viva, se il pendolino stava più o meno fermo la persona era morta. Già. E lui sosteneva di riuscire a fare questa cosa molto facilmente, con grandissimo successo. Ora, noi sappiamo che esiste un fenomeno che si chiama azione ideomotoria, per cui se uno si aspetta che il suo corpo si comporti in un certo modo, questo succede. Per cui pensavamo, era possibile che se la persona si aspettava che il pendolino si muovesse sopra una persona che sapeva fosse viva, questo avrebbe cominciato a muoversi rapidamente, e viceversa nell'altro caso. Allora cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo preso una ventina di fotografie di persone che fossero grosso modo metà vive e metà morte, scelte opportunamente in maniera che non fosse possibile indovinare. Naturalmente, se piglio una fotografia seppiata di un signore già anzianotto con i baffoni da Garibaldino, certo, qualche idea viene. Quindi abbiamo dovuto fare in modo che lui non potesse indovinare. Gliele abbiamo mostrate tutte senza dirgli quali erano vivi e quali erano morti. Ecco. E a quel punto il suo tasso di successo è crollato al 50%, cioè esattamente quello che ci si aspetta da una persona che tira a indovinare. Avendo due possibilità. Avendo due possibilità. Lui ci è rimasto un po' male, la cosa che ha detto è subito, ma io se lo faccio con persone che conosco invece mi funziona. Certo, però appunto era proprio che lui, non avendo lo strumento di questa cosa che si chiama protocollo cieco, cioè di fare un esperimento senza sapere quale potrà essere il risultato, non era stato in grado di progettare una vera verifica per il suo potere. Quello che voi dite è che se io tengo in mano la corda del pendolino e però, come dire, con il corpo e con la mente, che poi in questi casi sono un tutt'uno, sento di dover muovere, no? Che sento che quel pendolino debba muoversi in modo assolutamente impercettibile, le mie dita imprimono quel tanto di movimento che serve, insomma, è questo. È il fenomeno scientificamente noto. Sì, esattamente. E mi pare che la stessa cosa che avviene col pendolino, voi diciate, avviene anche con la famosa bacchetta del rabdomante. Sì, il principio è lo stesso. La bacchetta viene tenuta in maniera, viene tenuta tesa in maniera da essere in una posizione instabile, anche un piccolissimo movimento delle mani la fa scattare verso l'alto, verso il basso, può essere interpretato come un segno di qualche cosa. Sì, perché quando si vede il radomante si dice, ecco, vedete, la punta della bacchetta è in vibrazione, però quella vibrazione non è tanto l'acqua, ma il corpo. Una cosa interessante allora di questo libro è che smontando queste leggende di varia natura e provenienza si insegna anche molto bene, molto chiaramente, come funziona la scienza. E poi c'è una parte particolarmente interessante che riguarda la storia, che effettivamente viene spesso, come dire, contestata come disciplina nella quale si farebbe ricerca scientifica. Voi dite invece che no, non è così, c'è una metodologia scientifica nella storia. Certamente, la scienza, diciamo che si può dividere in due categorie: ci sono le scienze sperimentali come la fisica, quelle in cui si possono veramente fare gli esperimenti, e poi ci sono le scienze storiche in cui si cerca di ricostruire qualcosa che è già successo in passato e si cerca di capire come è andata. E di queste fanno parte naturalmente la storia e l'archeologia, ma se pensiamo anche a scienze in senso stretto, anche la paleontologia o la geologia o addirittura l'astronomia sono scienze storiche. Certo. O anche l'indagine poliziesca, se è per questo. In questi casi naturalmente non si può usare un paradigma, diciamo così, sperimentale come si usa per la fisica, perché non posso fare un esperimento sugli antichi egizi. Quello che caratterizza una scienza storica veramente scientifica è il fatto di procedere per ipotesi e verifica delle ipotesi in qualche modo. Quindi si mette alla prova la propria idea di quello che è successo andando a cercare le verifiche di quello che succede. E quello in fondo che però distingue un approccio veramente scientifico da un approccio misteriofilo, diciamo così, in cui si fanno un sacco di ipotesi, di spiegazioni alternative senza poi veramente andare a verificare quale sia quella giusta, e quindi si perde il punto della scientificità. E voi introducete questo discorso sulla storia perché effettivamente molte di queste cose strane, che in realtà strane non sono, si smontano perché si usa un metodo storico di confronto appunto con fatti successi. Bene, grazie Stefano Bagnasco e Beatrice Mautino. Il vostro libro è Sulla scena del mistero, guida scientifica all'indagine dei fenomeni inspiegabili, edito da Sironi. Buon Natale naturalmente anche a voi. Buone feste. Auguri. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È Natale, un giorno particolare, ma il quiz vi tocca ugualmente. Quiz che è un po' natalizio, lo è. La domanda, molto breve, è la seguente. Se è fatta d'acqua, perché la neve è bianca? Prima risposta, perché quando nevica il cielo è tendenzialmente biancastro e quindi la neve riflette quel colore. Ci scriverete cielo. Seconda possibilità, perché la neve è fatta da tanti cristalli che quando sono colpiti dalla luce riflettono tutti i colori e la somma dei colori è il bianco, ci scriverete cristalli. Terza e ultima possibilità, perché è acqua ghiacciata e il ghiaccio è bianco, ci scriverete ghiaccio. Dove? Bene, con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana, coerente con il quiz, è Il gelato estemporaneo e altre invenzioni della cucina molecolare italiana di Davide Cassi e Ettore Bocchi, edizioni Sperlin e Kupfer, e con Cassi e con Chiara Albicocco di Cucina Scientifica parleremo subito dopo. In collaborazione con IBS.it. Sempre su questo sfondo di Natale caraibico che abbiamo già sentito all'inizio di puntata, ho già preannunciato, Chiara, sei qui con me, ciao Chiara. Sì, Federico, ciao e buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti, ho già preannunciato che questa puntata avrebbe avuto una parte significativa dedicata alla cucina scientifica. Certo, perché noi ce ne occupiamo tutto l'anno, vogliamo non occuparcene durante le feste, stiamo scherzando. E ce ne occupiamo con il nostro Davide Cassi. Certo, con il nostro professore fisico bongustaio dell'Università degli Studi di Parma, Davide Cassi. Buonasera professore, buon Natale anche a lei. Auguri. Buonasera. Allora, mi pare che in questa puntata avremo la possibilità di scoprire le basi scientifiche del torrone. Eh sì, quello che abbiamo mangiato tutti oggi a pranzo e che ci accingiamo a mangiare anche stasera a cena. Professore, a lei la parola, commentiamo scientificamente questa ricetta che è veramente parte della tradizione natalizia italiana. Allora sì, la discussione di oggi la potremmo intitolare anche variazioni natalizie sul tema della meringa. Il torrone è a suo modo un tipo di meringa e quella che prepareremo è un tipo completamente opposto di meringa. Quindi vediamo che cos'è una meringa, tanto per iniziare. Allora, con un linguaggio molto generico, intendiamo per meringa una schiuma che ha aria all'interno, bollicine d'aria circondate dalle proteine dell'uovo, dell'albume dell'uovo nel caso specifico, e tutto attorno come fase continua acqua e zucchero, ovvero uno sciroppo. Ora, a seconda della densità di questo sciroppo, cioè rispetto alla quantità di zucchero che abbiamo rispetto all'acqua, noi possiamo avere consistenze molto diverse, da quelle morbidissime della nuova meringa italiana introdotta nel gelato estemporaneo, a quella invece particolarmente soda del torrone. Il torrone da che cosa è fatto? Da miele, zucchero, albume d'uovo, poi all'interno si uniscono a piacimento nocciole, mandorle, eccetera, eccetera. E via dicendo. Però prima di tutto bisogna preparare questa base che è fondamentalmente una meringa. Allora, come si fa? Di ricette tradizionali ne esistono centinaia, per cui prendiamo un punto di riferimento. Si può cominciare con mezzo chilo di miele, sì, che si mette a scaldare, a cuocere pian piano, in modo da farlo ridurre, cioè da far evaporare l'acqua, finché non diventa di una consistenza abbastanza solida. Cioè deve essere tale che se ne buttiamo una gocciolina nell'acqua fredda, questa si indurisce e si rompe. Ecco, diventa un po' colloso anche. Diventa particolarmente duro quando lo si raffredda. Questa deve essere la caratteristica. Benissimo, poi a parte noi montiamo tre albumi d'uovo e poi pian piano li incorporiamo a questo miele scaldato in modo da ottenere una consistenza spumosa. Ottenuta questa, aggiungiamo un caramello che avremo preparato a parte, un caramello molto chiaro, proprio l'inizio del caramello, con circa 500-600 grammi di zucchero e acqua. Ok. Unito anche questo, mescolando, aggiungeremo nocciole, mandorle tostate, volendo anche dei canditi. A piacimento, sì. Poi prima di far raffreddare il tutto lo si versa su una listarella di ostia e lo si ricopre con un'altra ostia. Questa è una possibilità, altrimenti lo si può fare addirittura fra due foglie di carta oleata senza aggiungere l'ostia. Ecco, una volta solidificato abbiamo una struttura che è un compromesso fra quella durissima del caramello e quella morbida della meringa, ovvero il peso specifico non è quello del caramello, la struttura è più leggera, inglobato bolle d'aria che la rendono masticabile, perché vi faccio notare che uno spesso caramello alto quanto un torrone non sarebbe assolutamente masticabile. Ecco, infatti, è questa la differenza. Esatto, è questa. Abbiamo inglobato delle bolle d'aria. Tutto il trucco consiste nell'utilizzare come d'uovo per inglobare bolle d'aria. Ecco, il fatto che il torrone sia duro o morbido dipende proprio da questo, dalla consistenza del miele, da come viene lavorato. Esattamente, perché il miele e lo zucchero lavorati insieme all'acqua si possono ridurre a consistenze molto diverse a seconda dell'acqua che resta. Cioè, se io faccio evaporare più acqua il caramello sarà particolarmente duro, se invece lascio più acqua all'interno del miele il torrone risulterà morbido. Ora veniamo invece alla parte più creativa, più scientifica. Questa era la ricetta, diciamo, tradizionale. Classica, del torrone. Certo. Invece nel libro del professore, che tra l'altro abbiamo regalato nel nostro quiz, di cui è uscita l'edizione nuova, Il gelato estemporaneo ed altre invenzioni della cucina molecolare italiana, edito da Sperling e Kupfer, viene citata la nuova meringa italiana, che ha delle varianti e che ovviamente si può fare anche al gusto di torrone, no professore? Ecco, benissimo, allora adesso qua ci inventiamo la variante natalizia al torrone della nuova meringa italiana. Tanto per iniziare, cos'è la nuova meringa italiana? Ecco. È la versione opposta al torrone, cioè una meringa morbidissima in cui addirittura noi aggiungiamo acqua agli albumi d'uovo per rendere tutto più fluido, più morbido. Inoltre, anziché zucchero comune, utilizziamo il fruttosio. Perché è un po' più dolce ed è più malleabile? È più igroscopico, lega meglio l'acqua e alla fine dà un risultato che è particolarmente morbido. Allora, la ricetta di base è sempre quella che potete trovare sul libro, cioè si parte da 100 grammi di albumi, si aggiungono 70 grammi di acqua, si aggiungono 150 grammi di fruttosio e si monta tutto a neve, piuttosto ferma. A questo punto mettiamo gli ingredienti che ricordano il torrone. Prenderemo della farina di mandorle e farina di nocciole e la facciamo tostare su una padella o in forno. L'importante è che sia già ridotta allo stato di farina in modo che la tostatura sia più viva, più spinta. E certo, perché se mettessimo le mandorle o le nocciole intere non crescerebbe, non perderebbe proprio la sua sofficità. Sì, intere non possiamo metterle perché contrasterebbe troppo la durezza di queste mandorle, di queste nocciole, con la consistenza morbidissima della nuova meringa italiana. Certo. Ecco, se vogliamo aggiungere canditi, frulliamo anche quelli molto finemente. Poi inglobiamo il tutto mescolando con una spatola al composto della nuova meringa italiana, lo mettiamo in uno stampino, lo cuociamo poi lentamente al microonde finché non otteniamo una struttura consistente ma ancora morbida. C'è una motivazione per cui utilizziamo il microonde e non il forno tradizionale? Sì, la motivazione è che con il microonde riusciamo a cuocere anche l'interno di questa meringa. La cottura sarà particolarmente uniforme e la consistenza sarà omogenea. Se cuocessimo nel forno tradizionale otterremmo un esterno quasi secco e un interno ancora troppo morbido. Ok. E questa era la nuova meringa italiana, nuova perché insomma l'avete inventata voi. Al torrone. Al torrone. Esatto, una consistenza che prima non esisteva nel mondo delle meringhe. Ecco, infatti professore, soffermiamoci un po' su che tipo di gusto e che tipo di sensazione rimane in bocca. E questa è la parte creativa, la parte nuova della ricetta. Sì, perché la nuova meringa italiana sembra solida, ma una volta che la mettiamo in bocca si disfa quasi immediatamente e dà una sensazione di assoluta lievità. Per cui rimarrà in bocca questo sapore del fruttosio che è piuttosto forte, si può anche correggere con un pizzico di acido citrico, che è un trucco che suggeriamo spesso nel libro, e una volta svanita ci resterà questo sentore di mandorle, di nocciole e di canditi che ricorda il torrone. quindi una sensazione di torrone, seppur togliamo tutta la parte ovviamente di consistenza dura del torrone, gli aromi del torrone con la consistenza della nuova meringa italiana, cioè manca completamente questa durezza, questa masticabilità del torrone. Vi chiedo però due cose, intanto perché magari chi ascolta vuole sapere quanto ci si mette a fare una cosa di questo genere, quanto tempo ci vuole? Per fare la nuova meringa italiana, ma considerando la tostatura delle mandorle e delle nocciole, diciamo fra un quarto d'ora e mezz'ora a seconda dell'abilità. Stasera la facciamo. Quindi è una roba che si può fare assolutamente in fretta. È piuttosto veloce. Sì, certo. Il torrone è un po' più lungo come preparazione. La ricetta c'è sul sito nostro. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto stasera lo trovate sul nostro blog di cucina scientifica, blog.moebiusonline.eu, che è redatto da noi di Moebius con la cura del professor Davide Cassi. Grazie mille professore, buon Natale, buona cena di Natale. Grazie, buon Natale. Grazie, arrivederci. Per tenere sotto controllo i mutamenti dell'ecosistema marino del cosiddetto Mar Giallo, ovvero quell'area dell'Oceano Pacifico che è prossima alla Cina, il governo di questo paese sta investendo cifre altissime, tutte rivolte alle ricerche e al monitoraggio. Qualcosa sta cambiando abbastanza velocemente e le cause possono essere le più diverse. C'è il problema del riscaldamento globale, l'inquinamento da scariche dei fiumi in mare, la Cina ha parecchi problemi di fiumi inquinati, anche attività di pesca fuori controllo. Per fare queste ricerche, una delle modalità classiche di raccolta dei dati si basa sull'individuare degli indicatori, ovvero una porzione dell'ecosistema che, essendo sottoposta a cambiamenti, sia possibile utilizzare come parametro di riferimento. E qui pare che i ricercatori cinesi abbiano deciso che un indicatore fondamentale sta diventando quello della presenza di meduse. Sono in crescita numerica e anche di dimensioni. Il problema, fra l'altro, non è solo cinese, ma anche giapponese, sono lì vicino, insomma. Quando si parla di dimensioni, si intende dire che esemplari con un diametro di 2 metri sono tutt'altro che rari, e quali ragioni siano la base di tale cambiamento è al momento tutt'altro che chiaro. Fra l'altro, le meduse stanno anche diventando un serio problema di sicurezza dei mari, perché ogni anno sono svariate decine nel Mar Giallo le vittime umane da contatto con questi animali. Alcune specie di meduse sono in grado di uccidere un essere umano nell'arco di soli 10 minuti dopo un contatto. Questa è la potenza degli acidi che sono emessi da questi animali. Come vi dicevo, una delle cause può certamente risiedere nell'eccesso di pesca industriale di alcune specie, le sardine, per esempio, i cui branchi sono tipicamente controllori dello sviluppo delle meduse, in quanto esse rappresentano uno dei cibi preferiti da questi piccoli pesci, che però le attaccano a migliaia. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È Natale e ci sembra che una buona proposta da dare ai nostri ascoltatori, però devono avere dai 18 ai 27 anni, è quella di partecipare a un concorso dove si devono portare delle buone idee e si può anche guadagnare qualche soldino. Per parlare di ciò è qui con me Enzo Taranto. Buonasera Enzo Taranto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Che è segretario del progetto di cui stiamo per parlarvi ed è membro del Lions Club, perché è dal Lions Club che nasce appunto quest'idea. Allora ci dica in sintesi che cos'è quest'idea. Attraverso quest'idea, come Lions Club, vogliamo stimolare i giovani nella fascia di età più creativa, dai 18 ai 27 anni, a pensare, a rivolgere la propria freschezza mentale, la propria genialità a problemi di tipo sociale. Noi siamo, come Lions, molto sensibili e destinati proprio come obiettivo societario dell'associazione al risolvere problemi di carattere sociale. Quindi cerchiamo di stimolare i giovani a pensare subito, da quando escono dal mondo della scuola ed entrano nel mondo della vita e del lavoro, a qualche soluzione che migliori la vivibilità nella città, o comunque la vivibilità in generale. E i settori nei quali si possono avere le idee sono i più diversi. Quello che conta è la relazione tra l'individuo, la persona, e queste realtà in cui deve inserirsi. Assolutamente. I settori noi abbiamo cercato di schematizzarli in 4 macro aree. Queste macro aree sono l'energia e l'ambiente, naturalmente, perché l'ambiente è una cosa estremamente importante, i trasporti e le comunicazioni, altro elemento vitale, nevralgico della vita quotidiana, tutto quello che riguarda l'abbinamento tra la parte medicina e l'ingegneria, quindi la bioingegneria, che è un altro aspetto di particolare innovazione nel mondo attuale, ed infine, ultimo ma non ultimo, quello che noi come Lions perseguiamo da tempo, e cioè l'aiuto ai disabili o ai non autosufficienti, agli anziani in generale. Prendiamoci qualche secondo per dare l'indicazione del sito vostro sul quale si possono avere appunto maggiori dettagli e anche iscriversi al concorso, perché non è semplicissimo, è un www.lifeabilityaward.com, cioè life e life come vita in inglese. Poi c'è ability, ma senza la ability, con la Y, e award, A-W-A-R-D, award, insomma è il classico, come il premio Oscar. Allora, www.lifeabilityaward.com. Esatto, che è appunto una traduzione stile Wikipedia, quindi sì, stile giovani, della parola vivibilità. Vivibilità. Un'ultima cosa, velocemente, si ha tempo per partecipare e mandare le proprie idee fino al 31 marzo, con l'intenzione di erogare i premi nel mese di aprile, e a questo scopo nel mese di aprile saremo supportati dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio nell'erogare questi premi. Bene, grazie Enzo Tanato, ci sentiremo quando avremo i premi e quindi anche un po' tutte le idee arrivate. Molto volentieri, grazie a voi, arrivederci. Barbara Galavotti, ciao. Ciao Federico, auguri a tutti. Auguri anche a te, ce li facciamo in onda. Allora, attraverso te abbiamo un ospite importante che è Alberto Angela, che ci parla di che cosa? Ci parla del suo nuovo libro, si chiama Impero, segue il suo primo libro sull'antica Roma, che si chiamava appunto Una giornata nell'antica Roma, è stato un grande successo. In questo libro nuovo invece si viaggia all'inseguimento di una moneta, è un sesterzio. Questa moneta passa di mano in mano, siamo intorno al 115 d.C., e rimbalza in questo modo da un punto all'altro dell'impero, che era sì immenso, però attraversato da strade, rotte, vie commerciali, di fatto perfettamente interconnesso e perfettamente organizzato in modo da permettere uno scambio di persone e soprattutto di cose e di idee. Certo, era una grande rete. Era una grande rete. Abbiamo incontrato Alberto Angela, che di fatto è di ritorno da una lunga avventura. Sono ritornato da un lungo viaggio. E ho visto. 2000 anni. In effetti il libro è davvero molto articolato ed è incredibilmente denso di suggestioni e di informazioni. Non a caso è il risultato di 3 anni di lavoro di ricerca. Però quello che lei racconta è tutto vero? Assolutamente. Nel senso che è un lungo lavoro che si basa anche su dati che emergono dagli scavi archeologici, da molti dati che abbiamo raccolto durante tutti questi 15, quasi 20 anni di riprese in tutti i siti, in praticamente tutti i luoghi nei quali passiamo in questo libro sono luoghi che ho in buona parte filmato, quindi conosco anche il taglio di luce sui monumenti o comunque non so, il riverbero delle lastre di marmo bianco sulla Leptis Magna, che ti dà quel colore agli occhi particolare. Insomma, ho cercato di infilare molte cose che avevo visto, molte cose che avevo imparato, che mi hanno detto gli archeologi sul sito. Poi ci sono i testi, diciamo, archeologici, storici, ci sono le pietre tombali, eccetera. E la particolarità di questo libro, che è un passaggio di una moneta di mano in mano, che ci fa fare tutto il giro dell'impero. Quindi si scoprono persone che a turno si impossessano di questo sesterzo, i loro volti, le loro sensazioni, il loro mondo, la loro casa, il loro modo di vivere. Quindi si passa dalle mani di un legionario a quello di uno schiavo, da una prostituta fino all'imperatore, e quindi si respira letteralmente l'atmosfera dei luoghi, gli odori dei vicoli, come quelli per esempio di Alessandria d'Egitto, non so, i legionari che combattono ai confini dell'impero, eccetera. E tutto però è reale, nel senso che queste persone sono realmente vissute, sono andate a cercare su lastre tombali e testi antichi i loro nomi, quindi sono nomi veri, persone vere che sono vissute in quegli anni, situato tutto nel 115 d.C., cioè nel pieno dell'epoca traiana, dell'epoca, insomma, dell'imperatore Traiano, e dal momento in cui Roma raggiunge col suo impero il massimo della sua bellezza, potenza e espansione, arrivando fino quasi a lambire l'Iran attuale. Anzi, geograficamente ne prende anche una piccola parte. E quindi a volte, quindi le persone sono vere, i loro nomi sono veri, i luoghi sono quelli dove sono vissuti, anche le cose che dicono sono, come dire, originali, perché provengono, le frasi, le battute, persino le barzellette che dicono, provengono da opere di famosi autori latini come Marziale, Giovenale, Ovidio. Alcune di queste persone sono reali, nel senso si vedono proprio. Ci sono delle bellissime immagini, dei ritratti, se vogliamo l'equivalente di Oliviero Toscani, quando faceva i primi piani. Ecco, sono state tratte dagli archeologi questi ritratti che loro appendevano come dei quadri in casa, e quando morivano, questa era una comunità che viveva in Egitto, si faceva applicare sulla mummia questo volto che il deserto ha conservato. Comincia a raccontarci qualche curiosità. Per esempio, a un certo punto questa moneta arriva a Parigi. Parigi non sarà stata come Roma, che era la più grande capitale del mondo, ma sarà pur stata per l'epoca una grande capitale europea, o no? Sì, ma le capitali di oggi, viste allora, ci fanno sorridere, sono come dei bambini, no? È come vedere la foto da bambino di un grande statista, di un presidente, cioè a quell'epoca eri proprio piccolo. Il caso di Parigi era 3 volte più piccola di Busto Arsizio o Pinerolo. Per chi abita a Roma, Parigi era grande quanto Vetralla, oppure per fare un altro riferimento, era più piccola di Pompei. Quindi veramente un piccolissimo paesino. Non era neanche la capitale, a quell'epoca la capitale era Lione. Quindi era un piccolissimo anonimo centro commerciale lungo la Senna. Ecco, visto che i francesi a questo punto saranno già un po' offesi, non abbiamo più nulla da perdere, lei nel libro racconta anche chi ha inventato lo champagne. Sì, sono stati i romani. Questo dobbiamo dire, lo spumante, sono stati i romani a farlo. Un duro colpo. Sì, questo è un duro colpo, però è la verità, nel senso che proprio se lei parla anche con degli esperti, gli diranno sì, se ci va a vedere i testi antichi, ci vede anche i modi di raggiungere, di realizzare questa bevanda ormai così legata al prossimo Capodanno. Quindi effettivamente i romani lo conoscevano già, poi non posso garantire sulla qualità, ecco, su questo non possiamo saperlo, però esisteva già, sì, l'avevano inventato. Ma altre cose hanno inventato, se uno va a vedere, gli occhiali nascono nel Medioevo, però le lenti forse già esistevano, perché si parla per esempio di Nerone che guardava i gladiatori attraverso una lente, cioè forse era un cristallo di quarzo, non era ben chiaro, però, oppure un pezzo di vetro che era stato sagomato, però lui li vedeva in questo modo, perché evidentemente vedeva male da lontano. Senta, lei parla spesso di Roma come la prima grande globalizzazione della storia. E effettivamente Roma era incredibilmente multietnica, però non c'erano tensioni razziali. Assolutamente no. La cosa incredibile è che se uno riesce, se va a vedere il busto di Settimio Severo, che è stato uno dei più grandi imperatori di Roma, ha difeso le frontiere, è stato veramente, come dire, in gamba. In realtà lui era libico. Quando si vedono questi suoi busti, si vede un uomo con una barbetta un po', non dico le tricine, ma un po' rada così, ma uno dice vabbè. Poi quando lo vede a colori, c'è un medaglione che lo fa vedere a colori assieme a tutta la famiglia, lui è il papà di Caracalla, tanto per esempio, e lo si vede che è molto africano, lo potremmo definire, la prima impatto sembra di vedere quasi Bob Marley, cioè veramente una persona con le trecine da telemotoscura, e quindi va un po' fuori dagli stereotipi che noi abbiamo degli imperatori romani. In realtà era perfettamente in linea con quello che era l'impero romano, nessuno veniva discriminato per il colore della pelle, non c'era razzismo, era come vedere oggi nel nostro paese uno con gli occhi chiari e gli occhi scuri, è una cosa normale, poi può piacere o meno, ma non è che ti guida male un aereo o ti scrive meglio un articolo, è assolutamente indipendente. In questi romani erano molto pratici, dove invece erano terribilmente, diremmo noi, razzisti tra virgolette, era a livello sociale, cioè se tu appartenivi alle classi alte addirittura la legge ti veniva incontro, cioè le pene che avevi erano minori rispetto, meno cattive rispetto a quelle che per lo stesso reato poteva prendere uno di una classe bassa. Lì, diciamo, il soldo, o meglio, il sesterzio, era la vera forma di potere. Lei dice anche che le antichità, in particolare romane, ma non solo, sono il petrolio dell'Italia. Perché? Perché noi abbiamo con i nostri siti l'equivalente dei pozzi di petrolio dell'Arabia Saudita, o comunque della penisola arabica. Perché ci portano tanti turisti, c'è un indotto, il turista arriva, compra, innanzitutto paga il biglietto, poi vuole prendere qualche libro sul sito, poi si ferma in un albergo, mangia in un ristorante, cioè in realtà questi siti ci fanno guadagnare, volendo, anche soldi, se vengono gestiti bene. Cioè è un bene per l'economia del nostro paese. Li gestiamo bene secondo la sua esperienza? Ma diciamo, secondo me no, però se io vado all'estero mi trovo bene, vedo degli alberghi molto ben tenuti, a prezzi contenuti. In Italia non è sempre così, non abbiamo, peccato che abbiamo una bellissima tradizione del turismo che però diciamo i dati sono molto chiari, cioè i paesi più visitati in Europa non siamo noi. Non c'è l'Italia. Quindi c'è la Francia, c'è la Spagna, ci sono questi paesi che hanno un fortissimo impatto turistico e hanno meno di noi, allora meno da far vedere, voglio dire, cioè, allora vuol dire che noi abbiamo tante potenzialità e non dico le sfruttiamo perché sfruttare è brutta parola, diciamo non le valorizziamo. Allora io dico questi sono i nostri petroli, però c'è una cosa straordinaria, e cioè mentre il petrolio si esaurirà, il turismo no, perché chiunque nasca al mondo e possa permettersi un volo in aereo vuole venire a vedere Roma e il Colosseo e vuole venire a vedere Firenze e Venezia, quindi è un grande patrimonio con una energia che è inesauribile, finché c'è l'uomo cioè, ci sarà qualcuno che viene, e questo è una cosa e nessuno ci può copiare, mentre una lavatrice, un brevetto, una nuova macchina viene subito copiata in Cina, in Corea, insomma essere è a rischio, se vogliamo. Il nostro patrimonio no. Per chiudere, ci racconta una barzelletta romana? Apro una parentesi, barzellette, trovare barzellette romane non è stato facile, però sono riuscito a trovare una raccolta che era stata tramandata in epoca medievale di un po' meno di 300 barzellette. Beh, bisogna dire che le barzellette col tempo perdono il loro appeal, già le barzellette dei nostri nonni quando le sentiamo non fanno ridere, quindi figuriamoci quelle dei romani, ma alcune sono ancora vive. Per esempio, un signore entra da un barbiere, il barbiere lo guarda la mattina e dice: allora, come li tagliamo oggi i capelli? Lui risponde: in silenzio. Grazie Alberto Angela, buonasera. Buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La domanda del quiz di questa puntata era molto breve: se è fatta d'acqua perché la neve è bianca? Sì, c'era una trappola nelle tre risposte, perché la terza, la neve è bianca perché è acqua ghiacciata e il ghiaccio è bianco, beh, questa era una finta risposta, una di quelle che si morde la coda, no? Infatti, perché il ghiaccio è bianco? Il cielo biancastro riflesso invece è una colossale bufala, la neve è bianca anche nell'interno di un bosco nel quale non si vede assolutamente il cielo. La risposta giusta allora è che una manciata di neve, dovete immaginarvela come un insieme di miliardi di cristallini. La luce che li colpisce viene riflessa allora da tutti questi cristallini con tutte le sue frequenze ed è come uno specchio. Una buona quantità di luce raggiunge quindi i nostri occhi e se ci arrivano tutte le frequenze il risultato è che noi vediamo il bianco. Dunque Chiara, come due puntate fa abbiamo chiamato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a partecipare a questa raccolta di indicazioni e suggerimenti sul cosa non fare se ci trovassimo di fronte agli alieni, cioè se gli alieni venissero a trovarci sul nostro pianeta, cosa non fare. Allora, se volete continuare a mandarci i vostri suggerimenti, il sito è mebius@radio24.it, la nostra mail moebius@radio24.it. ma io ti stavo dicendo, come abbiamo incominciato a dire questa cosa, sono arrivate un sacco di cose importanti sui marziani. Forse sì. Forse no. Dopo vedremo. Allora ricordiamo appunto questa nostra chiamata che vi abbiamo fatto. Sì, perché ci sono arrivate un po' di mail degli ascoltatori e a questo proposito vorremmo raccontarvene qualcuna. Mm. Ad esempio, Federico, se arrivassero gli alieni, io non gli presenterei un mazzo di fiori. Perché? Sai perché? No. Perché c'è tantissima gente allergica al polline dei fiori. E quindi cosa facciamo? Li facciamo starnutire subito come benvenuto? Siamo non lì va tutti bene. Sereni e tranquilli e felici di potergli far vedere dei bellissimi fiori della terra e invece questi incominciano a star male. Bisognerebbe anche, ci consigliano, tenerli lontani appena arrivassero giù, insomma, da delle carceri. Perché? Carceri? Sì, perché la prima impressione è quella che conta. Allora, se loro arrivano e vedono magari uno di questi carceri speciali, ben protetti, circondati, con un sacco di gente intorno a pochi individui, dicono quelli lì sono i più importanti della Terra. Ah, nel capisci? Senso, sarebbero esclusivi. Esatto. Ah, potrebbero proprio fare praticamente l'opposto. Invece un simpatico suggerimento ci arriva da un matematico. Allora, ci potrebbero portare delle collane fatte di palline, di vetro o piccoli specchi o altri oggetti di scambio. Come allora, Colombo, che cosa bisognerebbe non fare? Non bisognerebbe fargli vedere subito i nostri tesori, altrimenti loro li vorrebbero. Vabbè, pecchiamo un po' di presunzione. Vabbè. Potrebbero portare anche del whisky spaziale, però sarebbe meglio non berlo. E poi, soprattutto, evitare anche le caramelle, perché non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti. E poi, a proposito delle cose molto particolari che sono accadute intorno al tema alieni in queste ultime settimane, beh, insomma, gigantesca questa bufola che è circolata su un'infinità di mezzi di comunicazione, uno scherzo ben fatto, le Nazioni Unite avrebbero eletto un'ambasciatrice, c'è anche un nome, Mazlan Otman, che effettivamente è un'astrofisica, credo, di origine turca, che avrebbe avuto il compito di prepararsi già da ora, in caso di arrivo di alieni, insomma, organizzare il party. In realtà questa signora esiste veramente, e naturalmente quando è stata raggiunta per fare un'intervista ha detto: ma io veramente non so nulla. Però ci di siamo tutto cascati ciò. In tanti ci anche siamo noi, cascati forse. Noi. Certo. Allora concluderei invece con la citazione che ci arriva da un personaggio illustre, dalla Margherita Hack, che ci dice che cosa? Non dovremmo ripetere gli errori che gli europei hanno commesso con i nativi d'America e con gli aborigeni d'Australia. Saggia. Però direi anche che quello che tu avevi letto prima, insomma, quel matematico che ci diceva, beh, potrebbero arrivare anche loro però con delle collanine e con le caramelline, non bisogna accettare, anche loro potrebbero trattarci come Colombo con gli indigeni nelle isole centroamericane. Questo non sarebbe carino. No, ce lo meriteremmo un po' forse. Forse ce lo meriteremmo. Però la notizia di gran lunga più bomba è stata un 15 giorni fa la scoperta del batterio all'arsenico, che sarebbe in grado di sopravvivere in queste condizioni veramente estreme e che sarebbe in grado appunto di vivere grazie all'arsenico, che per quasi tutti gli esseri viventi invece è nocivo e assolutamente velenoso. Allora, che cos'è questo organismo? Da dove viene? A chi lo chiediamo? Ad un saggio. C'è stata forse un'esagerazione? Senti che cosa mi ha raccontato Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha seguito molto da vicino questa vicenda controversa. Beh, dietro questa notizia ci sono anche delle situazioni che devono essere chiarite, mi spiego meglio. Questa è indubbiamente una notizia che ha una sua rilevanza dal punto di vista scientifico. È una notizia che ci apre qualche orizzonte nuovo per quello che la vita può fare in ambienti estremamente ostili. D'altra parte dobbiamo anche considerare che in questo momento la NASA ha bisogno di pubblicizzare al massimo eventuali risultati, perché visto che si stanno discutendo i nuovi budget, visto che ci sono problemi su alcune missioni in fase di realizzazione dal punto di vista della quantità di soldi che sono necessari, è chiaro che soprattutto in un ambiente come quello americano, in cui il taxpayer è alla fine l'elemento che bisogna convincere di più, utilizzare al massimo dei risultati scientifici che in altri contesti sarebbero probabilmente un po' meno risonanti diventa importante. Insomma, c'è stato un po' di mediaticità. Esatto. Sì. Cioè di enfasi perché fosse ripresa. Infatti è questo che voglio dire, Flamini. È stata lanciata nelle prime ore come la scoperta, non esattamente così devo dire, però la sensazione che si generava nel pubblico è che avevamo scoperto sulla Terra tracce di qualcosa che poteva non essere terrestre, essere alieno, e questo si è un po' connesso con alcune teorie che però hanno dietro anche riflessioni scientifiche abbastanza rigorose, e cioè sul fatto che la vita può arrivare dallo spazio. Lei invece ci sta dicendo che era meglio essere un po' più prudenti. Sì, diciamo, indubbiamente tra l'aspettazione della notizia, cioè quello che tutti ci aspettavamo, vabbè, abbiamo trovato effettivamente traccia di un qualche cosa alieno, e la notizia di per sé, che ripeto però ha una grossa valenza scientifica, non va messa da parte o considerata una bufala, non è assolutamente quella, però il battage pubblicitario, diciamo, l'ha amplificata, se vogliamo, un po' oltre i confini di una buona ricerca scientifica, ma non certo da rivoluzionare la storia dello spazio. Detto questo, di nuovo però qui rientriamo in quel discorso appunto di dire: ma i mattoni primordiali della vita si sono sviluppati autonomamente sulla terra e solo sulla terra, oppure abbiamo delle possibilità che si sono sviluppate anche da altre parti ed eventualmente addirittura importati sulla terra, parliamo di migliaia di anni fa, sì. Parliamo durante la fase di formazione del pianeta stesso. Certo. Quindi questo è un dibattito che va avanti da tempo, è un dibattito che vede scienziati importantissimi che ne hanno parlato, che vede per esempio le comete come possibile vettore della dispersione nel sistema solare, ma anche fuori dal sistema solare, perché alcune comete vanno ben oltre i limiti del sistema solare, di quei mattoncini che poi, se opportunamente sviluppati nell'ambiente opportuno, possono diventare anche vita complessa. Ecco, perché però invece un batterio all'arsenico ci sta anche in una storia di vita tutta terrestre. Esatto, indubbiamente sì, cioè di nuovo, se non è necessariamente che viene dall'esterno, anzi, quello che possiamo dire è che eventualmente le teorie che ci dicono che la vita sulla Terra si adatta agli ambienti in cui si trova, ci possono far dire che questo batterio, questo virus che si è sviluppato già sulla Terra, in ambienti sicuramente abbastanza ostili, anche se messo in un ambiente estremamente ostile, sa modificarsi per adattarsi a quell'ambiente. Lei prima ci portava nello spazio, nel vuoto interstellare, nel vuoto interplanetario, che è uno, indubbiamente, forse è l'ambiente più ostile che possiamo pensare, insomma, per la vita. Qui spesso mi pare che ci sia una confusione, cioè si tende a pensare che la vita che arriva dallo spazio è già sotto forma di organismi, mentre invece, come i virus, che però insomma sono animali grossi, possiamo definirli così, mentre invece qui sono quei mattoncini a cui lei si riferiva prima, no? Infatti, cioè, quando parliamo di un virus parliamo già di un organismo che è in grado di riprodursi mantenendo l'informazione di chi era prima e quindi avere delle generazioni successive che mantengono essenzialmente l'informazione di che cos'era il progenitore, adattarsi all'ambiente in cui vivono e quindi evolversi. Questa è già una macchina molto complessa. Quello di cui noi parliamo normalmente quando si parla appunto di, per esempio, di panspermia, si parla di fattori essenziali, cioè, ovvero gli elementi di molecolari organici che ancora non hanno capacità di riprodursi o di evolversi, ma di cui gli animali, le macchine, diciamo come virus, per usare un termine un po' più scherzoso, che in effetti sono capaci di farlo, sono formati. Ognuno di noi è formato da una serie di elementi complessi che ovviamente si possono aggregare fino a formare un uomo, formare una pianta, un animale, certo, e così via, che ci distinguono essenzialmente dalla vita inorganica, dalle rocce, dai cristalli e quant'altro. Flamini, io la ringrazio per il contributo. Senta, noi siamo, insomma, possiamo comprendere la NASA, in fondo, noi vogliamo ricerche spaziali. Certo, forse qui hanno un po' calcato la mano. Hanno un po' calcato la mano, però ripeto, credo che sia alla fine per una buonissima causa. Ecco. Secondo poi, diciamo, è chiaro che le letture vanno sempre fatte su più piani e non tutti i piani sono totalmente lineari, ma questo vale per molti annunci che vengono fatti spesso in molti campi, non solo questo. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. I marziani siamo noi. Che cos'è? Un libro. Ce l'ho un qui davanti, lo vedi? Di Giovanni Bignami, noto astrofisico e anche ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, accademico del Lincei, insomma uno dei nostri scienziati più brillanti, che ha appunto appena scritto questo libro su questo tema di cui ci stiamo occupando stasera, di cui ha appena parlato anche Flamini. Ricordo la casa editrice Zanichelli. Bene, senti che cosa dice Bignami a proposito dei pianeti che si stanno scoprendo. Solo in quest'anno sono stati alcune decine, nella nostra galassia non solo, che potrebbero essere abitabili. Sono sicuro uscirà nel giro di pochi anni la scoperta di un'altra Terra e la scoperta di vita da qualche altra parte nell'universo, che ci farà anche automaticamente capire che cos'è la vita, cosa che adesso non sappiamo. Io questo sono convinto che nel giro di 10 anni succederà e questo sarà un cambiamento epocale per la scienza. Ma in fondo, se arrivano gli alieni, guarda, anche sotto Natale, io penso che sia una cosa carina. Sì, sì, ma poi diamo per scontato che si debba per forza essere antagonisti. Ma non è vero, infatti. Gente nuova, si può fare il cenone insieme. Sai cosa ti dico? Io li inviterei stasera al cenone. Ecco. Allora, auguri a tutti voi. Auguri a tutti, scappiamo a mangiare il nostro cappone ripieno. Buon Natale a tutti. Buon Natale.